Degno è l'agnello. Leggo nella Bibbia in Apocalisse capitolo 5, versetti 8 a 14. Quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e acquistato con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra». E vidi e udii voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era di miriadi e migliaia di migliaia. Essi dicevano a gran voce: «Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli». Le quattro creature viventi dicevano: «Amen», e gli anziani si prostrarono e adorarono. Molte persone hanno una bassa opinione di Gesù. Magari ritengono che sia stato un uomo con grandi meriti, pieno di bontà, un uomo di grande dirittura morale, ma non possono accettare che possa essere morto per i loro peccati. Nel libro dell'Apocalisse viene rimarcato più che mai il valore di ciò che Gesù Cristo ha fatto. In questo brano specifico, l'apostolo Giovanni ebbe una visione riguardante ciò che accade alla presenza di Dio stesso quando l'agnello, Gesù stesso, si appresta ad aprire il libro con i sette sigilli. L'apertura di tale libro darà il via in questa visione al giudizio di Dio di cui si parla nell'Apocalisse. L'unico degno di aprire tale libro è proprio l'agnello. Perché? La spiegazione la troviamo proprio nelle parole che abbiamo appena letto. Appena l'agnello si avvicina al libro, la lode esplode, partendo da coloro che sono più prossimi al trono di Dio, quattro creature viventi e 24 anziani, allargandosi a miriadi di angeli intorno al trono, per poi raggiungere tutte le creature dell'universo. Giovanni ha visto qualcosa di straordinario, unico. È un'immagine che lascia senza fiato, se cerchiamo di visualizzarla nella nostra mente. Egli ha visto l'agnello al centro di un canto di lode che si estende a tutte le creature dell'universo. L'agnello è degno di giustire il giudizio di Dio perché ha pagato in prima persona il prezzo del riscatto per l'umanità. Chi potrebbe giudicare l'uomo se non colui che ha dato la sua vita affinché gli uomini fossero salvati? Chi più di lui ha il diritto di giudicare coloro che hanno disprezzato ciò che lui ha fatto per loro? Lui è un agnello che si è fatto immolare, ma è anche un re e ha dato a tutti coloro che hanno riposto la loro fede in lui di fare parte del suo regno. Ha trasformato dei peccatori che non avrebbero potuto alzare la loro testa davanti a Dio in sacerdoti che possono presentarsi davanti a Dio con la certezza di essere ben accetti. Degno è il Signore Gesù Cristo, degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. A colui che siede sul trono, il Signore, il Creatore dell'universo e l'agnello siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Mentre immaginiamo questa bellissima scena, ogni persona che abbia compreso la grandezza di ciò che Gesù ha fatto per l'umanità, la grandezza del piano di Dio per la salvezza dell'uomo, non può fare altro che inginocchiarsi davanti a Dio ed unirsi idealmente a questo coro universale che proclama: «Degno è l'agnello».